Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti e buon inizio settimana a tutti. Da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. La settimana inizia con un tema, così lo vorremmo un po' definire divertente. In realtà poi quando ci troviamo in mezzo alla vita di condominio, molto pochi di noi insomma hanno voglia di sorridere. È un tema che in genere vi piace molto, movimentano un po' con le nostre trasmissioni. Oggi su Sole 24 Ore tra l'altro si parla delle assemblee per l'approvazione del bilancio. Questo è un periodo in cui molte assemblee appunto deliberano il conto preventivo delle spese che il condominio dovrà sostenere nel corso dell'anno, si delibera poi come queste spese saranno ripartite fra i condomini, c'è anche il consuntivo di ciò che è successo e ciò che è stato speso nei 12 mesi precedenti. Questo è, come dire, per sommi capi ciò che in via prioritaria succede in assemblea, ma è anche un momento in cui si scatena di tutto, perché è un tema sul quale si litiga non poco fra condomini. L'amministratore deve governare ovviamente in maniera molto precisa e puntuale, perché tra l'altro le spese condominiali sono in genere un onere non proprio indifferente per il bilancio delle famiglie. Di questo si parla anche, oltre che sul Sole di questa mattina, anche nella guida che è in edicola in questo periodo per tutto il mese di maggio con il Sole 24 Ore, condominio, la nuova guida per amministratori e condomini. Allora noi, partendo da quelle che sono gli obblighi che ha un'assemblea di condominio, stamattina da qui partiamo appunto per poi dare spazio anche ai vostri quesiti, che stanno peraltro già arrivando all'800 24 00 24, ma vedo che i primi ascoltatori sono particolarmente incaponiti, per la verità, nei confronti degli amministratori di condomini. Allora avremo modo anche di aiutarvi a capire come poter gestire situazioni problematiche di questo tipo, e ad aiutarci stamattina a Salva Danaio l'avvocato Augusto Cirla, segretario nazionale di Assocond, che è l'associazione italiana condomini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie di essere con noi. Peraltro l'avvocato Cirla lo conosciamo da anni, sempre stato al telefono, oggi invece ci fa il piacere di essere qui presente in diretta negli studi di Radio 24 a Milano. Numero verde 800 24 00 24 per le vostre telefonate, per i vostri messaggi invece 349 238 6666. E anche qua vedo che è stato colto subito l'invito che abbiamo lanciato a scriverci. Allora, la borsa, prima di partire con il tema di questa mattina, ne abbiamo già parlato nel corso del giornale radio, abbiamo un quadro che era partito male per l'Europa, poi c'è già stato un cambio di direzione, adesso sono quasi tutte positive le piazze del vecchio continente, con particolare riferimento a Londra che sta guadagnando lo 0,8%, mentre Parigi più 0,09%, Francoforte più 0,12%, questa mattina sono un po' in difficoltà con la voce, mi dovete scusare. Abbiamo invece un calo di un punto a Piazza Affari. Milano era partita molto peggio, perdeva più di 3,5 punti, ma oggi 23 società dell'S&P MIB stacca la cedola ed è uno stacco che pesa per il 2% sul valore dell'intero indice, per cui al netto, diciamo, di questo l'indice adesso appunto è in ribasso di un punto percentuale, considerando lo stacco appunto sarebbe teoricamente positivo di un punto. Scatto di Unicredit poco fa, titolo di Piazza Cordusi in rialzo di 8 punti, non ci sono delle motivazioni secondo le interpretazioni degli analisti dietro a questo rialzo se non di natura tecnica. 1,72 euro le quotazioni del titolo in questo momento. Continua a correre CIR più 4,45 per il gruppo editoriale, STM più 4,22. Il gruppo stamattina ha beneficiato di un giudizio positivo di una casa di investimento che, se non ricordo male, è UBS. Bulgari recupera un po' del terreno perso la scorsa settimana, più 3,44, Telecom più 3,32, anche in questo caso per un giudizio positivo che è stato assegnato al gruppo delle telecomunicazioni da Citigroup. Geox, dopo lo scivolone degli ultimi 2 giorni di giovedì e venerdì, oggi recupera il 3%, e dopo i conti continua a correre Parmalat, anche oggi più 2,67. Invece in difficoltà abbiamo tutte le utilities: Snam Rete Gas meno 1 punto, Enel meno 0,9, Mediobanca meno 0,9, anche Eni meno 0,8%. Euro su dollaro 1,34,67, il petrolio è sui $56 al barile. Aspettiamo anche una schiarita definitiva su Fiat e le vicende tedesche, probabilmente schiarite che arriveranno questa settimana. Sono previsti numerosi incontri tra Sergio Marchionne e l'industria appunto tedesca. Fiat oggi a Piazza Affari più 0,27%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. Oggi parliamo di assemblea di condominio. Le spese condominiali sono da sempre il tasto dolente nella gestione del condominio, oltre che fonti di litigio tra condomini e amministratori. Soprattutto in questo periodo, in cui solitamente viene convocata l'assemblea per deliberare l'approvazione del bilancio annuale. Cosa è bene sapere per arrivare preparati all'appuntamento? Durante l'assemblea, l'amministratore deve fornire a tutti i condomini il rendiconto delle spese sostenute nel corso dell'anno, che deve essere approvato dalla maggioranza dei presenti. L'elenco deve contenere sia la manutenzione ordinaria delle parti comuni dello stabile, come il pagamento del portinaio, dell'energia o dell'amministratore stesso, che le uscite per interventi strutturali o di manutenzione straordinaria. L'importante è che le due voci siano ben distinte. Oltre al rendiconto annuale, l'amministratore presenta ai condomini il bilancio, che elenca per gruppi le voci di entrata e di uscita e il residuo attivo o passivo di cassa. Mentre il rendiconto è indicato per competenza, cioè con l'indicazione di spese ed entrate in base al momento in cui sorgono, il bilancio è presentato per cassa, contiene cioè la specifica di entrate e uscite effettivamente verificatesi nell'anno. Gli eventuali crediti nei confronti dei condomini, ovvero le quote non ancora riscosse o viceversa i debiti, devono invece essere riportati in un apposito documento, lo stato patrimoniale. Una volta approvato quest'ultimo, non è più ammessa la possibilità per i condomini di contestare i conti o le spese sostenute, salvo poi impugnare la delibera di approvazione del bilancio. Viene infine presentato il preventivo per le spese necessarie per l'anno successivo, che deve contenere in evidenza le voci di entrata e uscita previste e il piano della loro ripartizione. È infine bene sapere che tutti i condomini possono controllare, prima dell'assemblea, tutti i giustificativi di spesa, in modo da arrivare all'appuntamento preparati per esercitare il proprio diritto. 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde, ma quando parliamo di condominio sembra proprio che non ce ne sia bisogno perché lo conoscete a memoria e siete molti già a chiedere di intervenire in diretta con i vostri quesiti. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Prima volevo solamente precisare una cosa: ci sono degli ascoltatori che ragionando sullo stacco delle cedole di questa mattina di molte società ci stanno chiedendo come funzionerà quello di Unicredit, perché ricorderete non è uno stacco di dividendo in contanti, non è una cedola in contanti, ma è una cedola distribuita praticamente in nuove azioni. Allora vi spiego la tecnicalità con cui funzionerà. L'operazione di stacco cedola di Unicredit prevede l'assegnazione gratuita ai soci di 29 nuove azioni ordinarie ogni 159 titoli già posseduti e 7 nuove azioni di risparmio ogni 60 azioni di risparmio possedute. Questo è il criterio con cui avviene questa distribuzione. Avvocato Cirla, però adesso andiamo subito all'assemblea di condominio. Certo. Allora, avevo trovato da qualche parte che questo è proprio un periodo molto, molto fiorente per l'assemblea. Mi è sembrata anche strana questa cosa perché, vabbè, io parlo sempre del mio, noi la facciamo a ottobre, novembre, ma è davvero in primavera il periodo in cui si stabiliscono i criteri di bilancio della vita condominiale? Sì, sì, nel senso che normalmente la gestione del condominio finisce con il 31 dicembre o gennaio alcune, quindi il tempo che è necessario per l'amministratore per predisporre un po' i conti, il rendiconto, più o meno sono circa 3 mesi. Ecco che arriviamo a primavera inoltrata con i più ritardatari, magari anche un po' più avanti. Insomma, ci devono proprio mandare di traverso le vacanze. Certo, certo. No, a parte gli è importante non perché è detto, eh. Non sempre, ma spesso ci riescono. È importante perché in questo momento, in questi periodi, perché ci sono le delibere che riguardano soprattutto il servizio di riscaldamento, sì. Quindi è in questo momento che devono essere prese le decisioni sul gestore, sulla ditta a cui affidare l'appalto e quant'altro, e poi è il momento che finalmente il condomino può prendere visione e conoscenza di quello che ha speso e quello che andrà a spendere. Quindi l'assemblea è il momento importante per il condominio, un po' il cuore del condominio, direi, per un duplice scopo: uno, da parte dei condomini, che finalmente possono vedere come ha operato l'amministratore, i conti, le spese fatte, le entrate, le morosità dei condomini, che è un problema dolente in questo momento, e una grande occasione per l'amministratore per spiegare ai condomini, far capire Assemblea dei Condomini come lavora, nel bene o nel male. Infatti è una grandissima occasione. Allora guardi, prima di andare così a capire quanto l'Assemblea sia sovrana su ogni decisione in ordine alla vita di condominio, è totalmente sovrana perché tutto passa attraverso le decisioni, certo, dell'Assemblea, quindi come deve essere anche governata da un bravo amministratore di condominio, cominciamo subito con le note dolenti, perché c'è un'ascoltatrice, la prima che ci ha scritto questa mattina, Silvia, che dice: il nostro amministratore non fa l'assemblea da 2 anni e non ci manda neanche le spese, cosa possiamo fare? E queste famiglie si ritroveranno un arretrato intanto incredibile, ne deve rispondere l'amministratore di questo operato non propriamente, mi sembra, corretto? Certo, c'è da preoccuparsi anche qua, perché innanzitutto premessa, l'amministratore che non rende il conto per 2 anni consecutivi può essere revocato o dall'assemblea oppure addirittura dall'autorità giudiziaria, ma questo è l'effetto, è il risultato finale. Il problema del condomino che non si vede rendere il conto per 2 anni, quindi soprattutto non si vede richiedere le spese condominiali per 2 anni, si può legittimamente chiedere come sia andato avanti questo condominio, certo. È un campanello d'allarme che enorme. Le luci vanno pagate, le spese vanno fatte per la gestione ordinaria, per cui... Esatto, e quindi cosa vuol dire? Che il rischio qual è? Che i fornitori, che magari sono stati calmi perché con l'amministratore hanno parlato, fatto, disfatto, nel momento stesso che si trovano questa morosità paurosa, ecco che agiscono poi giudizialmente, no? Agiscono contro il condominio, spese enormi e servizi ovviamente resi male. No? È vero che l'amministratore ne risponde, ma anche questa è una nota dolente, perché non sempre l'amministratore, passatemi il termine, è capiente, cioè è solvibile. Spesso, a meno la maggior parte dei casi, che purtroppo ahimè, è successo che ci fosse questa fuga dell'amministratore un po' truffaldino, anzi senza un po', il condominio si è trovato a zero. Si è trovato senza soldi, con l'amministratore ovviamente si è reso nulla tenente, azioni penali, azioni civili, cause lunghe, però di base il condomino deve far fronte ai fornitori. Infatti, tra l'altro c'è comunque un referente all'interno del condominio, generalmente viene nominato un consigliere di condominio, che è la persona che poi magari prima di tutti gli altri ha così la possibilità di interfacciarsi con l'amministratore qualora le cose funzionino bene, non funzionano, per tutta la gestione appunto ordinaria e straordinaria. Sì, in questo caso evidentemente questo condominio non l'aveva? No, il problema è questo: ci sono i consiglieri che hanno proprio queste funzioni di collaborare con l'amministratore, ma nei casi appunto in cui c'è questo amministratore un po' così negligente nella gestione, chiamiamolo così, spesso copre, spesso anche arriva a falsificare documenti. Quindi cosa vuol dire? Il fornitore, nel momento stesso che è in difficoltà con i pagamenti, si rivolge all'amministratore. Ecco che noi come associazione il consiglio che mandiamo è questo: proprio nel momento stesso che l'amministratore viene nominato oppure rientra poi nei poteri dell'assemblea, che si ordini praticamente ai fornitori nel momento stesso che hanno mancati pagamenti, non già di rivolgersi all'amministratore, perché sennò sarebbe praticamente si rivolge solo alla persona disonesta, ma rivolgersi ai consiglieri. In questo momento, nel momento stesso che i fornitori chiamano i consiglieri, scrivono i consiglieri, ecco che per il condominio scatta il campanello d'allarme fin quando non è troppo tardi, ovviamente. Allora, insomma, non riusciamo proprio ad entrare in assemblea, ancora stiamo all'amministratore che non lo convoca, cerchiamo magari di esaurire quanto prima questo punto, cominciando anche ad utilizzare le domande dei nostri ascoltatori. Nunzio da Roma, benvenuto a Salva Danaio, 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde per interagire con noi. Nunzio, anche lei mi pare stia lottando contro questo problema. Sì, purtroppo sì. Cosa le è successo? È successo, noi abbiamo la chiusura d'esercizio a settembre e a tutt'oggi ancora non abbiamo, nonostante le varie sollecitazioni fatte all'amministratore, sia telefoniche, raccomandate, telegrammi, l'amministratore non convoca alcuna dell'assemblea e non si fa presente all'interno del condominio. Quanto è grande il suo condominio? Sì, non si voleva fare a livello giuridico qualcosa nei confronti di questa persona che è inadempiente al suo dovere. E senta, Nunzio, quanto è grande il suo condominio? Quanti appartamenti sono? Siamo quanti 15 condomini. 15 condomini, ma secondo lei questo amministratore è talmente tanto impegnato, gestisce solo il vostro? No, no, non credo, no. Generalmente, insomma, no, non credo, chi lo fa per lavoro gestisce diversi, sì. Sì. No, non credo che sia per questo, anche perché è sua proprio professionalmente lui fa questo. Infatti, ma secondo lei si è anche un po' documentato, lo fa anche con gli altri condomini? Non lo so, è non lo ritardo. So perché non so quali sono. Sarebbe gli altri curioso, condomini certo. che lui gestisce. Nunzio, la ringrazio, sentiamo un po' qualche indicazione pratica da parte dell'avvocato Cirla. Che cosa si può fare? Mettere nero su bianco intanto che questo comportamento sì, certo, non va bene. Tentare, come credo che abbiano già tentato i condomini, ovviamente di sollecitare l'amministratore alla convocazione dell'assemblea. Se non la convoca, e visto che nel caso di specie è un condominio relativamente piccolo, perché 15 condomini sostanzialmente, chiedere l'autoconvocazione, cioè invitare, c'è un specifico articolo del codice che nelle disposizioni di attuazione che consente almeno due condomini che rappresentano un sesto di chiedere la convocazione dell'assemblea. Allora i condomini devono organizzarsi, invitare l'amministratore in forza di questo articolo a convocare l'assemblea con un ordine del giorno anche molto semplice, approvazione consuntivo, nomina amministratore preventivo, nell'ordinario stiamo, no? Se l'amministratore nei 10 giorni successivi al ricevimento dell'invito non convoca l'assemblea, allora i condomini possono autoconvocarsi, quindi inviando l'avviso di convocazione a tutti gli altri condomini e decidere di conseguenza. Direi che la prima cosa da fare è all'ordine del giorno nominare un amministratore in sostituzione del precedente. Il nuovo amministratore poi che cosa fa? Come si mette in rapporto con il vecchio? Perché chiaramente ci sarà da radunare di nuovo tutta la documentazione della gestione del condominio di anche cui si qua, va a assumere. Il nuovo amministratore immediatamente si relaziona con il vecchio, se ha riscontro, benissimo, c'è il cosiddetto passaggio delle consegne. Se è scappato con la cassa? Se è scappato con la cassa, di nuovo, ahimè, innanzitutto bisogna ricorrere all'autorità giudiziaria, addirittura con un provvedimento d'urgenza, il giudice può ordinare al vecchio amministratore la consegna della documentazione. Ipotizziamo un passaggio più morbido. Un passaggio più morbido, allora normalmente nei tempi compatibili con la gestione del condominio, il vecchio amministratore deve farsi parte diligente nel consegnare tutti i documenti che è in mano del condominio, perché ricordo i documenti sono del condominio, non sono dell'amministratore, quindi l'amministratore è obbligato a consegnare. Certo, tutti. No, però ecco, stavo ripensando a quella indicazione temporale che ci ha dato prima, se in 2 anni un amministratore non convoca nessuna assemblea può essere passibile di revoca, ma nel caso di Nunzio che invece non ha un'assemblea da molto meno tempo e però è scontento di questa gestione, possono revocarlo ugualmente? No, certo, ecco, il mandato dell'amministratore dura un anno, quindi non è che si rinnova automaticamente, ogni volta bisogna viene di una delibera, posto il punto precisamente all'ordine del giorno dell'assemblea. Nel momento stesso che viene convocata l'assemblea, nell'ordine del giorno i condomini ricorderanno che trovano sempre nomina dell'amministratore, che non è invece la riconferma, nomina dell'amministratore. In quel momento l'assemblea può ovviamente decidere la sostituzione. Per il vero l'amministratore può essere revocato in qualsiasi momento dall'assemblea, quindi nulla vieta ai condomini di convocare e di chiedere la convocazione dell'assemblea per la revoca dell'amministratore, anche se non sussistono questi casi disastrosi, può darsi che l'amministratore non vada bene, non seguono, viene meno il rapporto fiduciario, quindi l'assemblea può revocare il proprio amministratore. Ma che cosa avrà da fare che non convoca l'assemblea? Questo è il suo lavoro, qualche volta veramente queste situazioni mi stupiscono, però io come dico sempre sono Alice nel paese delle meraviglie. Ci sono sempre dei campanellini d'allarme. Che è bene andare, ha fatto bene Nunzio, che anche se sono passati pochi mesi, che lo stuzzichi un po'. C'è un ascoltatore che ci scrive, avvocato, molti condomini si improvvisano amministratori senza necessaria competenza, perché non istituire un albo obbligatorio? Beh, ci sono però delle associazioni alle quali è necessario iscriversi per fare questo lavoro. In realtà l'attività dell'amministratore è libera, non ci sono albi. Tant'è vero o che per piccoli ruoli, condomini effettivamente ci si organizza. Certo, l'amministratore in realtà non serve tanto l'albo degli amministratori per qualificare la bontà dell'operato dell'amministratore, servono le regole della buona amministrazione, quindi una volta stabilito che il rendiconto deve essere fatto in un determinato modo, che i tempi sono per la convocazione dell'assemblea devono essere quest'alti e tutti puntini che spetta all'assemblea mettere nel momento che nomina l'amministratore, ecco che l'albo assolutamente è irrilevante. Abbiamo già troppi albi, troppe categorie in Italia, manca solo quella dell'amministratore per però insomma ci sono Gesticond, c'è la NACI, ci sono tutte delle associazioni e comunque che magari danno anche consigli quello, che tutelano. Se un amministratore certo, è iscritto, ma soprattutto indice, fanno corsi di aggiornamento molto utili per gli amministratori, perché l'amministratore oggi deve gestire il condominio è difficile, esatto, ci sono dei infatti, compiti precisi. Esatto, e poi scopriremo appunto come questi punti vengono alla luce in assemblea. Allora faccio fare una domanda ad un ascoltatore, poi gli rispondiamo dopo la nostra pausa. Luciana da Milano, benvenuta. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Luciana. Il mio problema è un po' particolare, io vivo in un condominio molto grande con 400 circa famiglie, per cui abbiamo un amministratore con un incaricato che viene settimanalmente per risolvere problemi un po' che si presentano, oltre ai consiglieri eccetera. Io ho comprato casa nel 2006, solo che adesso mi trovo una ratta di conguaglio di spese straordinarie per la manutenzione dell'edificio, deliberate ancora nel 2005. Ah. Io ho una liberatoria da parte dell'amministratore al momento dell'acquisto della casa, mi sono fatta una liberatoria, ma c'è scritto salvo conguaglio, esatto, eccetera. Non so se questa rata piuttosto anche elevata aspetta me oppure alla vecchia proprietà. Io ho parlato con l'incaricato, il quale mi ha assicurato no, non si preoccupi, però sono passati 2 anni, non vorrei trovarmi con morosità il suo dubbio è legittimo. Luciana, buona giornata a tutti. Questa mattina a Salva Danaio abbiamo riportato il tema della vita di condominio, vorremmo focalizzarci sull'assemblea, i compiti dell'assemblea di condominio, soprattutto in ordine alla gestione delle spese, bilancio preventivo, bilancio consuntivo, e in realtà però siamo partiti un po' per la tangente perché anche se in realtà poi è un tema assolutamente attinente, ci siamo focalizzati soprattutto sull'atteggiamento dell'amministratore di condominio e su quelli che non fanno il loro lavoro e che non convocano le assemblee secondo tempi prestabiliti. Tra l'altro l'avvocato Cirla è questa mattina con noi, segretario nazionale di Assocom, dell'Associazione Italiana Condomini. C'è comunque l'obbligo di convocare almeno un'assemblea annuale, avvocato? Certo, perché l'amministratore almeno alla fine del suo mandato, quindi ovviamente alla fine dell'anno, deve rendere il conto del suo operato e quindi deve convocare l'assemblea. È nel momento dell'assemblea che si confronta con i condomini e rende il conto. E quindi giustamente quando questo appuntamento non viene rispettato, un primo campanellino d'allarme, anche se sì, poi magari ci può essere anche una comunicazione con la quale un amministratore certo, può dire guardare certo, per queste certo, ragioni abbiamo procrastinato i tempi. È possibile prevedere delle deroghe anche umano, insomma, compatibilmente con gli impegni di studio, purché non si protraggano oltre ogni limite di decenza, ecco. Direi che 3 mesi dalla chiusura della gestione sono un tempo ragionevole per convocare. Allora, Luciana abita in un grande condominio, 400 famiglie, ha acquistato questa casa qualche anno fa, si trova adesso una rata di conguaglio di spese straordinarie sostenute, se non ricordo male, tra il 2005 e il 2006, l'ha comprata forse nel 2005 questa casa, e adesso lei chiede insomma di capire se è obbligata al versamento di queste spese, avvocato. Allora, la legge è sufficientemente chiara sul punto, nel senso che dice che colui che diventa condomino, quindi che acquista l'appartamento, è responsabile in solido con il suo venditore per le spese e i pagamenti inerenti alla gestione in corso, quindi l'anno in cui compra, e la gestione precedente. Per quanto riguarda invece queste opere straordinarie che magari vengono eseguite in una determinata gestione ma poi i pagamenti si protraggono nelle altre gestioni. Infatti mi stupisce un po' che questa rata di conguaglio sia stata presentata ai condomini con 3 o 4 anni di tempo. È probabile che direi delle ipotesi, o i lavori si sono protratti per parecchi mesi, addirittura degli anni, insomma ci sono delle facciate di grossi condomini che vanno avanti un anno, 18 mesi come lavori, allora i pagamenti dilazionati. Poi c'è il collaudo finale e viene chiesto il conguaglio ai condomini, oppure terminati i lavori continuano poi le dilazioni di pagamento fino a 36-48 mesi per i condomini. Il punto fermo che viene fatto in questa problematica qual è? Normalmente con pur una giurisprudenza abbastanza oscillante su questo problema è questo, cioè paga chi era condomino al momento in cui l'opera è stata eseguita. No, questa è la regola fondamentale. Nel momento stesso che l'opera è eseguita in un determinato anno e io non sono ancora condomino, anche se i pagamenti poi sono successivi, viene pagato dal venditore. Restano comunque fermi tutti gli accordi possibili tra acquirente e venditore. lavoratore. Durante la fase, diciamo, della trattativa fatta, per la compravendita dell'immobile. Insomma, io ti lascio una casa che però deve sostenere questa spesa straordinaria, quindi posso quantomeno chiedere uno sconto sul prezzo. Certo. Ma questo... Oppure l'inverso, dicono pago io le spese straordinarie, però visto che ti troverai la facciata nuova, il prezzo aumenta. Aumenta, certo. In questo caso non è il caso di Luciana, che quindi teoricamente dipende da quando sono stati fatti i lavori e quindi potrebbe essere... Esatto, fermi i presupposti che ho detto prima, ritengo che, ahimè, spettano alla nuova condomina in questo caso. Allora, andiamo un po' a sentire altri ascoltatori. Piero da Isernia, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Piero. Buongiorno. Senta, una cortesia. Io faccio parte di un condominio di 8 appartamenti con sotto un locale di 200 metri che c'è una farmacia. Sì. Siccome stiamo ristrutturando l'ascensore che ha circa 40 anni e bisogna portarlo a norma, sono stati effettuati dei pagamenti in base alla tabella della manutenzione dell'ascensore, quelli che si pagano mensilmente. Mentre una ricerca da me fatta su internet risulta che i pagamenti, siccome che anche il locale della farmacia è proprietario, bisogna effettuarli in base alla proprietà. Però teoricamente la farmacia non usa, giustamente dice lei, l'ascensore. No, non usa l'ascensore, però questa ricerca così fatta dice, in base a una sentenza del 94, dice è sempre proprietario. Cioè, se succede qualcosa all'ascensore che non è a norma, anche la farmacia, la proprietà che ne utilizza meno, che non l'utilizza affatto. Poi, volendo, se vuole, lo utilizza, perché può andare nel terrazzo, che ci sono dei locali per l'acqua, insomma. Ecco. Sì. Siccome i pagamenti sono stati fatti sulla tabella della manutenzione, e invece a me risulta che bisogna... Farlo sulla tabella della proprietà. Sulla tabella di proprietà, cioè la tabella... Chiarissimo, Piero. Avvocato Cirla, allora chi ha ragione? Lui tra si è dovuto mettere a fare tutti questi lavori di ricerca da solo, Piero? No, il problema è relativamente semplice, nel senso che le spese dell'ascensore riguardo manutenzioni, chiamiamole straordinarie, che riguardano il bene stesso, che non sono inerenti al funzionamento dell'ascensore, come ad esempio potrebbero essere le funi, la cabina e quant'altro, sono spese di proprietà e quindi vanno ripartite tra tutti i condomini, perché anche colui che ad esempio ha il piano terreno che non usa l'ascensore per il fatto stesso di essere proprietario dell'ascensore, perché così è, salvo regolamento prevede diversamente, ecco che deve partecipare alle spese. Lo stesso per quanto riguarda gli adeguamenti dell'ascensore alla normativa in tema di sicurezza. È chiaro che nel momento stesso che l'ascensore non è a norma, non è sicura, nel caso di sinistro è ovvio che rispondono tutti i condomini. Ecco che allora sono spese che toccano la proprietà del bene e quindi anche la farmacia deve ottemperare a questo onere e partecipare secondo la tabella di proprietà. Insomma, quindi da quello che abbiamo capito, non ricordo bene se... Invece l'amministratore di condominio ha dato un'indicazione diversa rispetto alla ripartizione di questa spesa. Mi sembra che dall'ascoltatore dicesse la farmacia non intende pagare perché usa l'ascensore. A parte che ho sentito che comunque l'ascensore può essere potenzialmente usata per arrivare, per raggiungere locali comuni. Ben poco, però comunque c'è un uso potenziale. Ecco, se la farmacia si opponesse a questa spesa, avvocato, l'assemblea può deliberare l'esecuzione ugualmente? Certo, l'assemblea delibera, semmai spetterà alla proprietaria della farmacia impugnare questa delibera, e per impugnazione stiamo attenti, non basta la semplice raccomandata, ma occorre radicare proprio un giudizio davanti all'autorità giudiziaria. Spetta al condomino che si ritiene leso nei suoi diritti impugnare la delibera e aspettare la decisione del giudice. Mi pare che la vita di questo ascensore parte già parte in salita, va su all'ottavo piano. Allora sentiamo chi è che stava aspettando da un po'. Vincenzo da Piacenza. Vincenzo, benvenuto. Buongiorno. Dottoressa. Eccoci a lei. Io il mio problema è questo. Sono già 25 anni che abito in questo palazzo qua a Piacenza, non è mio palazzo, è dell'ente autonomo, che adesso il nome Acer, e dato che abbiamo degli sprechi enormi di acqua qui, abbiamo un contatore generale su 13 famiglie e non c'è nessun amministratore comunque, sì. E volevo sapere se io, dopo che già 10 anni o più che ho montato il mio contatore, perché la casa è predisposta, tutti gli appartamenti sono predisposti, Vorrei sentire l'avvocato Tirlo se diciamo io posso far fede del mio contatore o se mi posso appellare qualcuno. Vincenzo, però stamattina parliamo di assemblea di condominio, non ho capito se voi non avete un'organizzazione condominiale. No, noi abbiamo un contatore in generale per tutte le cellule di famiglie e voi sapete, io ce l'ho per mio conto, no? Voi sapete se posso far fede essendo in un palazzo non mio, diciamo, un appartamento non mio. Ma relativamente, perché teniamo presente che i consumi di acqua vanno anche conteggiati per i servizi comuni, no? Quindi se c'è, poi ci sono le cosiddette perdite di rete, cioè nel momento stesso che l'acqua entra nel contatore comune, poi ci sono magari delle dispersioni che ovviamente devono farsi carico tutti i condomini. Dipende anche dal criterio che è previsto nel regolamento del condominio, nel senso che se l'acqua viene ripartita a persona o a millesimo, è ovvio che non posso fare riferimento al mio contatore, se non come possibile paragone per poi portare il problema in assemblea e decidere magari un riparto in modo diverso, ma per tutti, non posso unilateralmente conteggiare solo il mio contatore. Allora, è arrivata una mail poco fa di Stefania, non dico il cognome, scrivo da Rimini, una realtà molto più piccola rispetto a quella di Milano, ma non esiste mica solo Milano, Stefania, ci mancherebbe altro al mondo. Sarebbe opportuno che i vostri consulenti vi informassero anche di quelli che sono gli obblighi fiscali ed amministrativi dell'amministratore di condominio, che l'unica cosa che ha da fare non è certo solo quella di convocare assemblee come appena asserito. Stefania, se vuole essere così qualunquista nel giudizio, ci dispiace molto, perché lo dicevamo con l'avvocato Cirla poco fa, 90% abbondante gli amministratori sono figure professionali di altissimo livello, di grande responsabilità, e quella percentuale a cui ci riferivamo all'inizio, che comunque va detto esiste, è appunto solo una minima percentuale. Però siccome Salvadanaio è una trasmissione di servizio, mediamente cerchiamo di individuare le criticità delle cose e aiutare gli ascoltatori a risolvere dei problemi. E certo, ma ci mancherebbe altro, sono invece... Io veramente applaudo l'attività dell'amministratore, ma io non farei mai questo tipo di lavoro. Difficilissimo, ma anzi, complimenti a chi lo fa, come la mia amministratrice, peraltro, molto bene. Speriamo di non dovermi rimangiare quello che ho appena detto fra poco. Allora, Stefania, per cui ci scusi se è passato questo messaggio che non voleva assolutamente essere quello che lei invece ha percepito. Gian Domenico da Bari, andiamo al Sud Italia. Gian Domenico, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, io volevo chiedere, io ho acquistato un appartamento nel 2006, mi fa parte di un condominio, però ha un ingresso a parte, un numero civico diverso da quello del portone condominiale. Sì. Subito dopo che ho acquistato, dopo qualche mese, questo condominio, diciamo, aveva una lunga storia a livello di cause, e insomma è avvenuta la sentenza del giudice, alla quale io mi ritrovo a pagare delle spese un po' eccessive, praticamente. Sì. Pur non entrando nel portone condominiale, non soffrendo l'ascensore di niente, cioè mi trovo a partecipare a tutte queste spese e anche di più della condomina che sta al quinto piano. Io di recente ho così perfino la chiave del portone, cioè quindi non ho per niente accesso né intenzione né necessità di entrare. Mi chiedo, cioè è normale che devo partecipare in tutto per tutto e anche di più degli altri condomini a questo... Beh certo, Gian Domenico, bisognerebbe ricostruire magari con un po' più di dettagli la sua situazione. Detto questo, la sintetizzo nella misura estrema, avvocato Cirla, non usa gran parte delle parti comuni questo ascoltatore, quindi è giusto che concorra alla ripartizione delle spese nella misura in cui ci ha indicato? Teniamo sempre presente, come dicevo prima, che dobbiamo fare riferimento al cosiddetto uso potenziale, cioè non per il fatto che io non usi un servizio sono autorizzato a non pagarlo, perché comunque se ho potenzialmente la possibilità di farlo, devo comunque contribuire alle spese. Il fenomeno dell'ascoltatore è abbastanza frequente, nel senso che c'è la palazzina magari a latere che entra, soprattutto si verificano spesso per i box e quant'altro. Teniamo presente che magari nell'androne, non so se l'ascoltatore è in questo il caso o meno, nell'androne c'è la portineria, ci sono le scale per andare ai solai e quant'altro. Quindi nel momento stesso che c'è un servizio che io posso usare, anche se poi materialmente non ho chiesto le chiavi dell'androne dell'ingresso all'amministratore o quant'altro, in ogni caso devo farlo. Direi che comunque la regola generale è il punto fermo, è sempre il regolamento. Nel momento stesso che il regolamento esclude il riparto delle spese ai condomini che sono nei cosiddetti condomini parziali, sostanzialmente un'unità immobiliare staccata, allora va bene. Se ahimè il regolamento non dice nulla, ritengo che anche in questi casi debbano essere sopportate le spese. Ecco, è bene che comunque queste situazioni si conoscano in via preventiva, ma certamente. Nel momento stesso che acquisto un'unità immobiliare in un condominio, la prima cosa che devo fare è devo andare a leggermi il regolamento, devo vedere come sono i riparti delle spese e poi magari andare a trattare con l'amministratore, certo, per capire com'è la situazione. Come lei però ben sa, avvocato Cirla, i regolamenti di condominio sono molto stringati. Sono molto stringati e spesso, ne ho visti parecchi, fanno riferimento al codice civile, cioè richiamano le norme dettate dal codice civile, e questo è un male. Quindi se posso dare un suggerimento per o le nuove costruzioni oppure per condomini che nascono nuovi da frazionamenti, vi dicendo, stiamo attenti al regolamento, a farlo più dettagliato possibile, soprattutto sull'uso delle parti comuni, dei servizi e del riparto delle spese, perché la legge è abbastanza generica. Esatto, anche se poi qualche suo collega in realtà sostiene che essendo generalmente una rosa di norme molto contenuta e limitata, è oggetto della massima interpretazione possibile da parte proprio della vita assembleare del condominio, certo, e questo dà una possibilità appunto di poter essere gestito al meglio, insomma. Assolutamente sì. Vizi e virtù del regolamento di condominio. Allora, Egidio dalla provincia di Milano, che mi dicono sia molto simpatico dal centralino. Egidio. Va bene, io dico che la dottoressa Debora ha un'esperienza che dovrebbe essere considerata da tutti noi. Ma per la bravura. Egidio, io ho tanti ospiti bravi, non sono io li coordino bene, speriamo. Lei lo conduce bene, questo è bello. Esatto, però ho tanti problemi sia col condominio, con il mutuo, quindi sono un po' proprio una di voi, Egidio. Ci dica tutto, cosa le è successo nel suo condominio? È successo questo. La prima cosa che volevo far presente è questa. Noi abbiamo fatto una prima assemblea condominiale per cui dell'anno 2000, consuntivo 2008, dove abbiamo chiesto all'amministratore dei chiarimenti ben precisi per 8.516 euro. Sì. È stata fatta una seconda e a questa seconda l'amministratore non ha risposto. A questo punto non è stato approvato il consuntivo 2008, no? E poi è stato bocciato. Ora chiedo, il nuovo amministratore, non avendo approvato il 2008, deve fare in modo all'ex amministratore di far presente, chiarire, e se non chiarisce di restituirci questi soldi? Egidio, sentiamo subito l'avvocato. Certamente, perché siamo attenti, noi non possiamo lasciare un rendiconto così nel limbo. Non è che l'assemblea, non approvando il rendiconto, quindi una determinata spesa, se ne lava le mani e la spesa rimane lì. No, perché se effettivamente il fornitore è stato pagato, il fornitore è direi incolpevole nei confronti del condominio, magari ha sbagliato l'amministratore. Allora delle due l'una: o il nuovo amministratore chiede al vecchio chiarimenti su questa spesa di 8.000 euro, mi sembra di aver sentito, che non è stata chiarita, e ottiene i chiarimenti, oppure l'assemblea prende una decisione e quindi boccia la spesa e ritiene quindi responsabile l'amministratore per averla sostenuta magari in eccesso al deliberato dell'assemblea o addirittura senza il deliberato dell'assemblea. Non ce la faremo mai a rispondere a Silvana da Latina. Silvana, io gliela faccio fare la domanda, la faccio io per lei: ristrutturazione dell'edificio, come si dividono le spese in millesimi? Mi voleva sapere? Silvana? Sì. Benissimo. Sì, perché l'amministratore sostiene che c'è una norma che dice che i mini appartamenti, siccome pagano poco, per la ristrutturazione pagheranno di più. Ecco tutto qua. Guardi, l'avvocato già gli viene da ridere, Silvana. Cioè, scusi il riso, però vabbè, di tutto sempre nuovo, siamo sempre aperti alle nuove soluzioni, ma questa mi sembra catastrofica. Nel senso che se di portata rivoluzionaria, ecco, esatto, direi. Ognuno paga secondo le sue tabelle millesimali di proprietà, appunto. Silvana, ci scriva se a tempo, così almeno potremo così dare un'occhiata un po' più dettagliata al suo caso, e sarebbe anche divertente sapere a che titolo argomenta in questa maniera questa disposizione questo amministratore di condominio. Giovanni da Milano, rapidamente, perché stiamo chiudendo. Velocissimo, sì. La ringrazio per l'udienza. No, volevo solo sapere se è legittimo che l'amministratore percepisca, cioè esponga e percepisca un emolumento per assemblea straordinaria, oppure se non è diritto, perché c'è O se tutto rientra nel compenso che comunque normalmente viene assegnato ad un amministratore di condominio, dipende, per la sua attività. Dipende da quello che è contenuto nel mandato che ha presentato nell'assemblea, cioè quando presenta il preventivo dei propri costi deve essere specificato che oltre all'emolumento pattuito ci sono determinati oneri in più, quali possono essere una percentuale sui lavori straordinari oppure un particolare compenso per l'assemblea straordinaria. Però attenzione, deve essere determinato e specificato praticamente nell'offerta che fa l'amministratore nel momento dell'assemblea che si presenta come candidato. Avvocato, ci siamo divertiti come al solito moltissimo su questo argomento, anche se poi quando andiamo all'assemblea tutt'altro facciamo tranne che divertirci, appunto. Il condominio, la nuova guida per amministratori e condomini, la guida in edicola in questo periodo con il Sole 24 Ore, va pagata a parte rispetto al prezzo del quotidiano. Grazie a tutti, a domani. Salva Danaio.